Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, coloro che ci ascoltano dal computer, coloro che ci ascoltano in macchina e a chi ci ascolta anche, che ne so, andando a correre o in bicicletta. È passato un mese da quando, dall'ultima volta che ho pubblicato qualcosa su Medium. Mi scuso con tutti voi per, come dire, questa assenza, però effettivamente ci sono state tante cose in pentola e abbiamo dovuto gestire molte cose, fra cui anche da parte mia la preparazione per Essen, che chiaramente non è per me solamente un evento nel quale vado là e gioco al torneo di Netrunner, ma è anche un momento in cui vado a scoprire i nuovi giochi da tavolo, visto che sono non solo un appassionato di Netrunner ma anche di giochi da tavolo, cosa che in realtà potreste anche sapere perché probabilmente sentite la mia voce anche nel podcast che faccio insieme a Fabio e agli altri ragazzi di Giochi sul nostro tavolo, il quale però chiaramente è un sito legato ai giochi da tavolo e quindi non parliamo di Netrunner se non io, che ogni tanto sclero e dico: ragazzi, assolutamente dovete provare Netrunner, c'ho la scimmia tremenda. Non a caso sono qui a parlarne in questo podcast che ho deciso di fare, come dire, per i fatti miei. Poi chiaramente c'è stato questo cambio di regia da parte di Stefano, il Paddo-san, lo conoscete sia su netrunner.it perché ha rinnovato praticamente l'immagine grafica del sito e ne ha preso anche le redini. Io mi sono offerto gentilmente magari di dare una mano e di scrivere ogni tanto qualche articolo. Come avete letto recentemente, se avete avuto modo di seguire netrunner.it, non sono uno che ama particolarmente scrivere, quindi preferisco piuttosto parlare a ruota libera sul podcast, che è probabilmente il mio media naturale. Tante cose sono successe in questo mese, una in particolare è stata l'avvento di Second Thoughts, cioè in realtà la versione un po' tedesca di Second Thoughts, nel senso che sì, uscirà fra pochi giorni la versione americana, quindi anche quella che avremo a disposizione noi qui in Italia. Ma ad Essen c'è stata una pre-release, non a caso io ho un datapack in tedesco, ci tengo a precisare che io non so una virgola di tedesco, però ho detto vabbè, le immagini ci sono, tra un po' con le spoiler conoscerò a memoria la correlazione fra l'immagine e quello che fa, più o meno potrò giocarle, approfitto, me lo prendo ad Essen e in questa maniera ho una sorta di anteprima di Second Thoughts. Oggi l'idea era proprio di parlare di Second Thoughts perché sta per uscire, tra poco ci dovremo fare un po' i conti e ci sono alcune carte in particolare che secondo me faranno la differenza sul metagame presente e soprattutto futuro. Quindi preparatevi a immaginare nuovi deck, immaginare nuovi mazzi, nuove tipologie di strategie sia per il runner che per la corp. Andiamo a parlare delle carte che faranno la differenza, non parlerò di tutte perché non voglio annoiarvi con un podcast troppo lungo, però quelle che effettivamente faranno la differenza le diamo di sviscerarle con precisione. Ecco, poi infine vi parlerò anche di come è andato il torneo. Vi dico già che sono arrivato secondo al torneo, ancora rosico perché chiaramente sono arrivato secondo a un punto di distanza, avendo io vinto una partita come corp non a punti ma a tempo, cioè il tempo era finito, avevo più agende dell'avversario, ho preso solamente un punto invece che due e questo ha fatto la differenza sulla classifica finale, nella quale io ero a 13 punti e il primo classificato invece era a 14, avendo quindi vinto lui il torneo, io sono arrivato secondo. Io sono un po' come Ricky Bobby su questi aspetti: se non sei primo, sei ultimo, e quindi ecco, un po' mi tira il culo. Però sicuramente è stata una bella performance, non mi dispiace di essere arrivato secondo, anzi i mazzi che ho portato sono stati assolutamente super solidi. Non ve lo dico tutto subito, ve lo dico un po' alla fine, vi faccio un piccolo report. Passiamo subito a parlare del spoiler di Second Thoughts e di quello che potrebbe essere il cambiamento del metagame a seconda dell'uscita di queste carte. Prima carta di cui parliamo oggi è chiaramente Eureka. Evento doppio, costo 3, influenza 1. Come costo addizionale per giocare questo evento spendi un click, ed è per questo che è un evento doppio, ma in realtà vediamo che non è poi così doppio, visto che ti consente di guardare la prima carta del tuo mazzo e poi installarla se sei in grado, quindi Fable, abbassando il costo di 10, altrimenti la trashi. Allora, di per sé questa carta è una carta risk reward, cioè mi prendo un rischio di trashare una carta che avrei voluto giocare, per esempio, che potrebbe essere un evento, ma eventualmente, se non è un evento ma è un hardware, una risorsa oppure un programma, la installo praticamente gratis. Dico praticamente perché comunque c'è un costo di 3 per lanciare questa carta, e installare quindi mi fa riprendere il doppio click, che è della pescare e installare, quindi a tutti gli effetti è un evento doppio, ma non così tanto dispendioso dal punto di vista dei click. Chiaramente da sola non sarebbe una gran carta, però l'esistenza di test run e motivation la rendono veramente eccezionale. A costo 3 posso installare cose come Femme Fatale, posso installare che già va in combo con Scavenge, quindi è già in un mazzo che prevede test run e 3 Femme Fatale, quindi si tratta semplicemente di avere un super modded da poter giocare su Femme Fatale una volta che l'hai usato per test run, invece di usare Scavenge se magari non ce l'hai. Quindi fondamentalmente è il quarto, quinto e sesto Scavenge che hai nella combo test run Femme Fatale Scavenge, e qui adesso diventerà test run Femme Fatale Scavenge o Eureka. Alcuni dicono anche Monolith potrebbe essere interessante, bah, la devo ancora vedere. Monolith è molto condizionale al fatto che devi avere delle carte in mano da poter, cioè, anzi no, dei programmi in mano da poter giocare in combinazione con Monolith per poterne abbassare i costi. Non sono così convinto. Sicuramente insieme a Femme Fatale e a tante, o anche a Toolbox. Toolbox è la console, diciamo, più bistrattata di tutto il core set e anche, diciamo, di tutto il gioco in generale. Con questa carta inizia a essere molto interessante, nel senso che effettivamente avercela in gioco gratis tutti la giocherebbero, potendola cercare. E ne metti una sola, con il test run metti solamente un toolbox che quindi non ti imboffa il mazzo, te la cerchi, te la installi con Eureka, e a costo 3 fondamentalmente hai la migliore console che potevi chiedere, anche perché in questo periodo probabilmente diventerà sempre più importante avere link molto elevato, e quindi toolbox che ti dà un boost al link potrebbe aver senso in un mazzo. Si sta già configurando un mazzetto che ho in mente molto interessante. Andiamo avanti con l'analisi delle carte. Record Reconstructor. Hardware, installi a costo di installazione 0, influenza 1. Ogni qualvolta fai una run di successo negli archivi, invece di accedere alle carte degli archivi, puoi scegliere una carta face up, quindi una carta visibile, e aggiungerla in cima al mazzo, quindi in cima a Research and Development. Questa è una carta molto particolare, sembra che non è che faccia molto, anzi quasi quasi, analizzata diciamo a secco, dici ma cavolo, ma rendo indietro una carta alla corp che potrà riutilizzare. Però a tutti gli effetti è un rallentatore, cioè crea un effetto di R&D lock, Io con 4 run ti metto 4 carte sopra il mazzo, tu peschi sempre quelle. Se le carte che hai in mano non riesci a giocarle, ti tocca di scartarle. E l'unico fatto è che dovendole scartare, diciamo a faccia in giù, in questa maniera devi fare la prima run, trasformi tutto quello che è faccia in giù in faccia in su, e poi le altre run le puoi fare bloccando la corpo che si ritrova a dover pescare come una dannata per riuscire ad accedere alle carte vive del mazzo e non quelle che gli hai rimesso sopra. In combinazione magari con degli effetti ricorrenti all'inizio turno puoi creare un blocco che ti consentirebbe, per esempio, che ne so, con i Professional Contact, no scusa, con i Underground Contact, non mi ricordo, è quello che ti dà comunque un soldino se hai più di due link, e in combinazione con quello ti permetterebbero di creare un lock momentaneo per salire di denaro per poi andare a ripartire con le run e tutto quanto. Quindi è come se potrebbe essere utilizzato come stop momentaneo per poter garantire al runner di riprendersi. Non lo so, sicuramente in combinazione con altri mazzi, con altre carte future, sarà magari anche più forte. Per ora è solo da tenere d'occhio. Passiamo adesso a Hellion Alpha Test. Ah, questa mi piace moltissimo, soprattutto perché io la chiamo la anti Katie Jones. È molto utile anche contro Professional Contact, ma con Katie Jones è veramente devastante. Allora, cosa ci dice questo Black Op Operation? Costa 1, 3 di influenza, quindi la vedremo splashata, ma non magari molto, molto frequente nei mazzi, solamente quindi in HB. Gioca questa carta solamente se l'avversario ha installato una risorsa nel vecchio turno, quindi nel turno precedente. Che cosa fa? Trace 2, quindi è un'abilità che si innesca solamente se vinci la trace. Se ha successo, aggiungi una risorsa installata in cima al mazzo del runner, quindi chiaramente non necessariamente la risorsa appena installata nel turno precedente, ma magari, che ne so, hai messo un daily cast o un qualsiasi altra cosa nel turno precedente, però io ti rimbalzo il Professional Contact piuttosto che la Katie Jones. Se invece non ha successo questa trace, prendi una bad publicity. Ora, io tutta questa cosa del fatto che se non ha successo succede qualcosa non la capisco. È come se tu facessi, cioè lanciassi una trace sapendo che la perderai. I conti, la matematica la puoi fare. Azioni improvvise che danno soldi al runner, a mio parere non ce ne sono. E quindi questa cosa del se non ha successo prendi una bad publicity non la capisco. La potrei capire in una situazione di bluff nel quale fai finta di non ricordarti che il runner ha uno di link, fai una trace pompata in maniera tale che lui, cioè simulando il fatto che dici la pompo, che ne so, fino a 8 perché tanto tu hai 7 soldi. Fai finta di non ricordarti che lui ha uno di link, lui spende tutti i suoi soldi, che magari è il tuo obiettivo, e ti prende una bad publicity, e in questa maniera gli fai spendere tutti i soldi per fare, che ne so, una trace subito dopo, piuttosto che renderlo povero in maniera definitiva. Non lo so, mi sembra questa parte, diciamo, della carta, che se non ha successo prende una bad publicity, non capisco perché l'abbiano messa, o comunque non mi sembra che aggiunga molto al flavor della carta. Passiamo a quella dopo, Clone Retirement. Ah, questa è la mia preferita. No, ce n'è un'altra mia preferita, ma solamente perché è troppo forte. Questa però per me è veramente una di quelle carte che rimettono in piedi i Jinteki. È un'agenda, costa 2. Uno per un punto, diciamo, vittoria se la porti a termine. Quando la scori perdi una bad publicity. Quando invece qualcuno te la ruba, prendi una bad publicity. Ora, perché mi piace questa carta? Perché è troppo tematica. Che cos'è che sta facendo Jinteki? Sta facendo un istituto nel quale dice: ah, ma noi accogliamo i cloni che sono diventati vecchi, e siccome l'abbiamo fatto questo istituto, cioè siccome hai portato a punto questo istituto, tutti sono contenti e perdi, e Jinteki perde una bad publicity. Ma in realtà cosa succede? Che se il runner te la ruba, ti sputtana su tutta la piazza, perché quello che stai facendo non è un centro per anziani di cloni, ma fondamentalmente un modo molto pulito di fare eutanasia ai cloni che non servono più. Fondamentalmente è bellissima, cioè il tema è geniale, io la adoro. In più, ragazzi, Jinteki ha bisogno di agende che diano un punto solo, perché Jinteki le usa fondamentalmente come spari da poter utilizzare contro la corp, quindi scusa, contro il runner. Chiaramente più agende ruba il runner, cioè più agende deve rubare il runner per poter vincere, e più danni mette dà la possibilità a Jinteki di fare più danni, più net damage possibile. Insomma, a me piace molto, credo che la vedremo molto giocata. Sto già creando un mazzetto Jinteki che gioca un casino di agende da uno, e ha come obiettivo quelle magari di creare una situazione in cui più di una è pronta per essere scorata, per poi generare una tempesta di agende scorate che porta a flatline l'avversario. Quella dopo è Swordsman, ancora Jinteki. È un Ice Sentry Destroyer AP, quindi anti-personal, costo di Reds 3, forza 2, non un granché, influenza 1, quindi verrà usato in molti mazzi, soprattutto se vedremo dei meta che e vedono l'utilizzo di tante intelligenze artificiali, come è il meta attuale. D'altronde il runner non può usare programmi con intelligenza artificiale, quindi programmi AI per rompere le subroutine di Swordsman. Ora, il fatto è questo, che una delle subroutine è proprio rompi, cioè Trash One AI Program, quindi è veramente fatta solamente per rompere il meta dei vari Atman, dei vari Crypsis, dei vari Darwin. Non ci metto Wyrm, anche se al torneo di Essen l'ho visto giocato una volta. Comunque, e in più, come sabrutina addizionale, giusto per dire, non sono creato solamente per quello, fa un net damage. A me piace come carta, secondo me è molto tematica. Considerate che lo sfondo in cui stiamo vivendo questa esperienza di Netrunner è la continua lotta fra hacker e corporazioni. Quindi di fatto è giusto anche che magari le corporazioni vedano un attacco massivo da parte degli hacker sotto forma di intelligenze artificiali e si attivino proprio per rompere queste intelligenze artificiali in maniera molto specifica. Dal punto di vista del gioco, a me in generale non piacciono molto le carte così specifiche, però ci può stare. Oh, passiamo a una bella cartina NBN, Scandal Reporter. Per ora la stanno traducendo come Scandal Reporter, anche se non sappiamo ancora la traduzione inglese reale. Sì, Scandal Reporter non sarebbe male, ma sarebbe molto molto più bello se si chiamasse Paparazzi, che fondamentalmente è quello che fa, cioè quando lo rezzi ti dà una bad publicity, perché d'altronde l'uso dei paparazzi non ha mai reso le persone, reso le corporazioni più popolari. D'altronde però fa una bella cosina, cioè fa tre subroutine che sono tre trace. Ormai stiamo imparando a vedere questa tripletta di trace da 1, da 2, da 3, perché anche altri spoiler lo hanno evidenziato. e fanno tutte la stessa cosa. Dai runner una tag, dai runner una tag, dai runner una tag. L'ultima trace, la quarta trace, scusate, l'ultima subroutine non è una trace e dice semplicemente termina la run se il runner è taggato. Quindi fondamentalmente, se il runner vuole passare attraverso deve spendere, se ha 0 di link deve spendere 6 per poter passare questo ice. Attenzione, i crediti ricorrenti della bad publicity si attivano solamente quando la run ha inizio, quindi avendo già iniziato la run tu non hai ancora quel credito ricorrente generato dalla bad publicity che si è appena assegnata alla corp. Quindi paghi 6 la prima volta che te lo rezzano, paghi 6 se hai 0 di link. Se hai uno di link paghi 3, se hai 2 di link fondamentalmente paghi 1 per non avere nessuna tag. Quindi con 1 o 2 di link non è una buona ratio di quello che spende la corp e quello che spende il runner per passare questo ice. 3 di forza, 3 è un numero per la forza un po' sfigato perché Mimic te la rompe, e in generale 3 è una di quei numeri che vengono utilizzati anche da Atman per poter rompere i vari ice wall piuttosto che Neural Katana. E vabbè, a me non dispiace, credo che in alcuni mazzi, soprattutto orientati verso il Tag Storm, quindi Psychographic, Mid-Season Replacement o anche eventualmente Tag and Bag a base NBN, possa aver senso. D'altronde con 3 di influenza lo vedremo plausibilmente solamente in NBN. Passiamo adesso a The Cleaners, i ripulitori. Chiaramente questi cosa fanno? Nel momento in cui tu attivi questa agenda, cioè l'avanzi 5 volte e ottieni 3 punti agenda, hai praticamente questi pulitori che cosa fanno? Se te bombardi molto qualcuno, se gli fai tanto male, puoi anche esagerare senza la paura del fatto che qualcuno ti peschi a aver esagerato sul bombardamento, perché tanto ci sono questi pulitori che dicono ma non c'è problema, puliamo noi. Quindi come l'hanno reso dal punto di vista della meccanica di gioco? Tutte le volte che un runner prende almeno un danno, diciamo un meat damage, il runner prende un addizionale meat damage. Questo fa sì che Private Security Force diventi veramente impressionante, cioè se sei taggato e ogni click ti faccio 2 danni, sei veramente messo male. Sì, effettivamente migliora anche Scorched Earth, che ti fa 5 danni invece che 4, ma onestamente su Scorched Earth secondo me non fa molto la differenza, perché se crei una condizione per cui riesci a scorare le 5-3, fondamentalmente ti conviene andare a punti, cioè hai creato un serverone il runner non ci può passare, metti l'agenda, te la scori, già 6 a 3 e sei messo bene. È anche poi vero che avere una Private Security Force e un Decliner scorato genera quella situazione di estrema pressione nella quale il runner non sa se ti andrò ad uccidere con il meat damage, oppure quindi taggandoti, oppure ti andrò a uccidere vincerò semplicemente facendo i punti. Passiamo subito a quella dopo, che si chiama Elizabeth Mill. L'avete vista come clone retirement, l'avete vista su netrunner.it se avete ascoltato il podcast, sì scusate, se avete letto gli articoli del Paddosan. È una bellissima carta, cioè alla fine in un meta dove ci saranno molte location utili e interessanti da poter trasciare, questa è un auto include, anche perché con 2 di influenza la potremo vedere anche fuori fazione. E a me non piace particolarmente l'effetto del rimuovere la bad publicity e dare la bad publicity, perché ancora non vedo tanta manovra, tante azioni, tante carte basate sulla bad publicity. Quando invece bad publicity sarà una cosa, cioè sarà qualcosa di molto importante da tenere in considerazione, potrebbe aver senso tirarla fuori e pagare i due solo per rimuovere la bad publicity e poi trasciarla senza utilizzarne l'effetto, in modo da come dire, essere puliti e non avere una condizione che magari innesca degli effetti di carte del runner che chiedono la condizione iniziale che abbia una bad publicity. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Insomma, in futuro probabilmente avrà ancora più senso. Adesso è sempre una carta, come dire, di risposta molto condizionale al metagame. Passiamo alla ciccia di questo data pack, cioè off the grid. Questo è veramente serio. Allora, come ogni super upgrade gigante che si rispetti, off the grid costa 6. Al contrario degli altri grandi upgrade, il costo di trash è 0. Ora, se avessi detto questo qui e non avessi letto che cosa fa, avrei detto: non me ne frega qual è l'effetto, se costa 6 e costa 0 da trashare fa cagare, nel senso che può fare anche il caffè ma tanto non la utilizzerò. Ma poi leggi l'effetto e dici: ah, forse allora ha senso quel trash a 0. Sì, perché effettivamente nessuno potrà mai trasciarlo, nel senso che Off the Grid dice questo: lo puoi installare solamente in un server remoto e il runner non può iniziare run in questo server. Cioè, quando dici run, non puoi dichiarare il server dove c'è Off the Grid. Quindi fondamentalmente ci posso scorrare le agende senza nemmeno gli ice, perché tanto non ci puoi iniziare delle run. Ora, in futuro vedremo sempre più la possibilità da parte dei runner di saltare da un punto all'altro, come se avessero iniziato la run in un punto e la finiscono in un altro. Quindi è vero che tu non puoi iniziare una run verso quel server, ma magari la inizi da una parte e con delle meccaniche che vedremo in futuro, e ce n'è una anche diciamo in questo data pack, che però ho deciso di non considerare perché non la considero particolarmente forte, e vedremo che potrà eventualmente accedere a off the grid anche saltando da un server all'altro, ed è per questo che il costo di trash c'è chiaramente. Se nessuno avrebbe avuto mai la possibilità di accedere a off the grid, non aveva nemmeno senso metterci il costo di trash, e invece c'è perché chiaramente potresti, che ne so, un bullfrog di una persona pazza completamente ti fa saltare da un server fino a off the grid, e accedi a off the grid e la trasci. Detto questo, off the grid viene trashata però anche in un'altra maniera, cioè quando il runner fa una successful run, quindi una run di successo su headquarter, quindi sulla tua mano, puoi trashare off the grid senza costi addizionali. Quindi attenzione, è vero, è veramente una carta sgravata, cioè dal momento in cui ho 3 off the grid nel mazzo sono sicuro che mi devo occupare di proteggere solamente headquarter, forse archivi vista la presenza di Sneak Door Beta, ma comunque in generale solamente i central server, perché tanto nessuno può accedere al mio server remoto, che appunto è fuori dalla rete, off the grid, cioè fuori dalla griglia di internet. Io direi che è una carta che cambierà il meta. Credo che la vedremo in 3 pair nella maggior parte dei mazzi Wayland, forse in qualche mazzo anche particolare che deciderà di spendere 9 punti influenza per metterne 3, e chissà quali diavolerie si inventeranno. Da oggi in poi i central server sono ancora più importanti, soprattutto per Wayland, il quale già ha dei begli stopper, perché ha tutti i vari end run più efficienti, quindi Ice Wall, Adrian Wall e tutte le altre diavolerie che si inventa con Swarm e tutti gli altri avanzabili. Io dico che questa qui è la carta del data pack. Poi siete liberi di, come dire, sconfermarmi dicendo: ah no, è quest'altra è più forte, quest'altra sarà più importante per il metagame di Netrunner. Per ora a me mi sembra questa la carta veramente più efficiente. Passiamo invece a Profittering, agenda neutra, attenzione, ribadisco neutra, quindi tutti la potranno utilizzare. Costa 3 da avanzare, ti dà solo un punto vittoria, quindi solo un punto agenda. Però quando la metti a punti, quando la scori, come si dice in dialetto netranniano, ti prendi 3 bad publicity, però prendi anche 15 soldi, perché prendi una bad publicity, scusa, prendi 5 soldi per ogni bad publicity che hai preso in questo modo. Secondo me l'hanno formulata in questa maniera perché probabilmente ci saranno in futuro degli asset che ti permetteranno di diminuire la quantità di bad publicity che prendi, che diranno, per esempio, che ne so, se ti stai per prendere una bad publicity ne prendi una in meno, oppure se stai per prendere una bad publicity ne prendi una in più, magari effetti anche del runner. Quindi l'hanno messa in questa maniera, hanno scritto per ogni bad publicity che hai preso in questa maniera prendi 5 soldi, perché probabilmente prenderai 10 o 20 soldi se avrai questi aumenti o raddoppio, non lo so che diavoleria si inventeranno, legata alle bad publicity. Questa è interessante, questa è un'agenda molto interessante, chiama tanto Jinteki, il quale sta praticamente fondando la sua meccanica di generazione del denaro attraverso i Gila Hand e a questo punto anche questa agenda profitering. Perché chiama Jinteki? Perché essendo un'agenda che dà un punto solo, si ricollega a quel discorso di avere tante agende da uno che fanno tanti net damage, e quindi è tutto, diciamo, funziona perfettamente in maniera molto oliata proprio per Jinteki. Poi magari sarà uno splash che faranno tutti. Il fatto di averla fa sì che, come dire, tutte le corp si potranno waylandizzare avendo una sorta di super hostile takeover, meno efficiente di hostile takeover, però super hostile takeover da poter implementare nel loro mazzo. Passiamo all'ultima carta di cui voglio parlare di questo datapack, che è Restructure, e ti dice semplicemente: è un'operazione, è una transaction, quindi Wayland ringrazia, costa 10 e ha 0 di influenza perché è neutrale. Ti consente di avere 15 soldi. Ora, è il ledge fund pompato, cioè è l'edge fund più difficile da lanciare e anche più profittevole rispetto a edge fund che ha uno scarto di 4. E invece, per quanto riguarda Restructure, è uno scarto di 5, quindi hai un'ottimizzazione di 5 soldi. Ma io, secondo me, pur vedendo questa carta una carta neutra, la vedo in realtà una carta Wayland, anche solamente per il fatto che Wayland di primo turno può fare Edge Fund, Restructure e andare a 16 soldi, cosa che invece tutte le altre corp non possono fare, perché Edge Fund li porta a 9. E quindi dovrebbero impiegare un intero turno per arrivare a 15 soldi. Vedremo se verrà utilizzata anche da altre corp che non siano Wayland, magari in combinazione appunto con Profitering potrebbe avere più senso, perché faccio scoro Profitering e spendo un click per fare Restructure, potrebbe aver senso, ancora più senso in Jinteki, perché lo scoring di Profitering avverrebbe sicuramente non come conseguenza di 3 click spesi per avanzarlo, ma magari all'inizio del turno. È una carta sicuramente che fa la differenza, perché è una carta neutra di economia, di esplosiva, seppur con questa limitazione molto grande del 10 iniziale di costo, però sì, spero di vederla utilizzata, perché comunque vedere nuove carte all'interno del metagame è interessante. Non ci credo tantissimo. Per questo datapack mi fermo qui, anche perché direi già dalla prossima settimana vedrete uscire l'articolo del Paddosan, nel quale anch'io diciamo esprimo la mia opinione su questo datapack, nel quale poi commentiamo completamente tutte le carte una ad una, non solo queste carte di cui ho parlato oggi. Passiamo adesso al piccolo commento, anche se ho già scritto un articolo, passiamo al commento, diciamo, di come è andato il torneo. È andato bene, dai, è stato un bel torneo nel quale l'organizzazione non è stata impeccabile, diciamo non è stata tedesca, seppure gli organizzatori erano tedeschi, perché in primis noi siamo arrivati e avendo scritto un post su Board Game Geek nel quale dicevano quali erano le condizioni del torneo, noi ci siamo iscritti e poi non ci abbiamo guardato più. Dopo 5 giorni prima del torneo hanno detto Opening Moves è disponibile, noi ci siamo presentati ad Essen con i mazzi pre-Opening Moves e invece la maggior parte degli altri giocatori avevano tutti i mazzi post-Opening Moves, quindi che includevano simpatici John Masanori, Jackson Howard e chi più ne ha più ne metta, belle carte arrivate con Opening Moves. Già lì un piccolo glitch all'organizzazione del torneo. Eravamo 27 giocatori, molti di questi erano super rookie, cioè c'erano due persone che addirittura avevano fatto una demo il giorno prima e gli era stato fornito un mazzo per partecipare, quindi non era sicuramente un torneo di livello altissimo, però effettivamente ho incontrato, chiaramente nei primi tavoli ho incontrato la gente che stava vincendo e quindi ho incontrato della gente capace di runnare senza errori. Io ho portato Andromeda che ha filato liscio come l'olio, assolutamente uno di quei mazzi sui quali puoi fare affidamento. Ero molto preoccupato della parte economica di Andromeda, che effettivamente è stato l'unico aspetto importante delle mie giocate, cioè come riuscire a reperire denaro. Non a caso ho preferito togliere i data sucker, che effettivamente sono un aspetto abbastanza economico, però un po' troppo sotto il controllo della corp a mio avviso, e ci ho messo i modded, cioè sono riuscito a infilare 3 modded all'interno del mazzo sacrificando addirittura il terzo quality time, perché effettivamente questo mi ha consentito di fare degli exploit iniziali di primo turno, tipo, che ne so, Easy Mark invece che Hedge Fund, che sarebbe stato fondamentale, Easy Mark, Modded Crypsis, quindi Modded che installa Crypsis a costo 2, e segnalino su Crypsis Account Siphon. In quella maniera 4 volte su 5 sono riuscito a creare una corp povera e me ricco, quindi a 10 crediti o a 8 crediti in più. La cosa poi nel secondo turno mi consentiva poi di mettere i vari, che ne so, R&D interface piuttosto che corroder e yog, oppure special order yog, special order corroder, insomma ferry che costa solo 0. Quindi era veramente un primo turno esplosivo, il che mi andavo a cercare anche attraverso i mulligan. Ho mulligato solamente 2 volte durante il torneo, perché comunque già la prima partenza mi consentiva di partire già con questa combo definitiva. Era un mazzo tag me, quindi non aveva risorse se non same old thing, e che giochi praticamente nello stesso turno in cui lo usi, quindi giochi same old thing, rifai e account siphon, te ne sbatti completamente delle tag, chiaramente se non stai giocando contro un tag and bag, anche se giocavo 3 plus crit. E un'altra risorsa un po' usa e getta era bank job, che ti dà quel burst di cui hai bisogno a seguito della pescata magari fatta da quality time. Quindi fai quality time, peschi bank job, e una volta che sei di nuovo operativo puoi passare attraverso come il burro praticamente a tutto. Yog veramente impressionante perché neutralizza tutti i vari data pike piuttosto che enigma che puoi incontrare. E insomma, dal punto di vista corp è andato, dal punto di vista runner è andato veramente tutto liscio, non ne ho persa nessuna se non per il fatto che una l'ho persa a punti, cioè l'ho vinta a tempo invece che a punti, e quindi ho ottenuto solamente un punto rispetto a quello che avrei dovuto ottenere, ovvero 2 punti che mi avrebbero portato almeno a pari merito con il primo giocatore. Poi probabilmente il primo giocatore avrebbe comunque vinto, perché se non ho capito bene ha giocato comunque con giocatori più forti dei miei, e quindi a prestigio avrebbe comunque vinto, però insomma un po' ti tira il culo. Insomma, questo per quanto riguarda il lato runner. Per quanto riguarda invece il lato corp, mi sono trovato molto bene con questo MBN Fast Advance puro, senza diciamo scorched earth, senza cercare di mettere le tag per forza e tutto quanto, concentrato solamente sull'aspetto del fai soldi senza spendere click, quindi market account e pad campaign. Chiaramente market account e pad campaign anche usati come forma di money denial, cioè come modo per forzare il runner a dover spendere soldi per trasciartele. E in più c'era questa sorta di trick particolare per cui giocavo tre ice che ti rompevano i programmi, ovvero un ICI e due Archer, i quali andavano in combo perfetti con Corporate Troubleshooter che ho messo al posto degli Ash. Cioè, l'Ash sei sicuro che ti salva perché magari ti obbliga il runner a entrare due volte su un serverone grande e a spendere due volte i soldi, e non sempre nemmeno Ash hanno i soldi per trasciarlo. Però, data una situazione di full rig, non ci puoi far niente. Dopo un po' il runner entra plurime volte, ti trascia Ash e il tuo server è completamente violato, può entrare quando vuole. Al contrario, invece, la combinazione Archer o ICI più Corporate Troubleshooter ha creato, guardate, sono bastate due volte, cioè questa combinazione l'ho portata a termine due volte, ma in quelle due volte ha praticamente creato la vittoria automatica della Corp. Cioè, il runner aveva messo in conto magari di vedere Archer perché magari in un R&D lock o in un index l'aveva visto, però non aveva messo in conto che Archer sarebbe stato forza 10, forza 11. A costo 5 crei un Archer gigantesco che non è rompibile in nessuna maniera. Se lo becca nei denti, gli rompi quel magnum opus, gli rompi il Crypsis con sopra i personal touch. Guarda, ve lo dico con molta precisione perché sono riuscito a tirar fuori questa combo due volte. Ho rotto un magnum opus e un Darwin con i personal touch, e un'altra volta ho rotto solo un magnum opus perché è riuscito a raggiungere la mia forza, ma non riusciva a rompere con tutti i soldi che aveva, ma non riusciva a rompere due dei trash program subroutine che Archer ha. E quindi gli ho rotto il magnum opus. E in queste partite dove sono riuscito a lanciare questo tipo di attacco, non c'è stata trippa per i gatti, perché è vero che sacrifichi un'agenda, e una volta di queste due è stata anche un'agenda da due, quindi è stato anche un project bill o un astroscript, non mi ricordo. Ma una volta che però hai rotto il full rig dell'avversario e l'hai messo in ginocchio perché ha dovuto spendere tutto per cercare di non prendersi le botte, va da sé che poi fai il cavolo che ti pare a te, e con gli astroscript, i Sansan a terra che non ti può trasciare perché è povero, lo porti a casa il risultato in un attimo. Le due partite che ho perso, una non ha girato benissimo il mazzo, come corp intendo, e le due partite che ho perso, una il mazzo non ha girato per niente, e l'altro invece è stato molto molto efficace il runner che con una Kate e i vari Parasite mi ha messo in ginocchio da subito, facendomi incursioni da due carte o da tre carte, non mi ricordo. Ogni volta su R&D finché non si è andata a prendere quello che cercavo, chiaramente togliendomi le agende io non potevo nemmeno rispondere. Comunque, ecco, vi dico, un bellissimo torneo. Il primo giocatore ha vinto con un Wizard più NBN, e anche Nicola, che probabilmente voi non conoscete, nel senso che non è molto presente sul sito, è però un giocatore qui di Bologna che gioca spesso con noi, si è piazzato terzo. Forse lui si meritava più di me di piazzarsi primo, perché ha giocato veramente delle belle partite, però chiaramente quando ti affidi a un tag and bag come corp, non sai mai se riuscirai a spingere per, che ne so, il triplo scorched earth piuttosto che altro. E niente, questo è tutto per quanto riguarda per quanto riguarda sia il Second Thoughts che il torneo che ho fatto a Essen, ci ritroviamo per le prossime puntate con il solito format di una puntata dedicata alla Corp e una puntata dedicata al runner, mio malgrado, perché chiaramente io sono un corporativo. Vi saluto per oggi e ci vediamo online. Ah no, l'ultima cosa, iscrivetevi assolutamente al Burning Chrome Tournament, cioè il torneo che è stato organizzato da Netrunner.it per fare un bel torneo su Octagon. Potrebbe essere un modo molto interessante per capire questa piattaforma, come funziona. Se invece già sapete come funziona, non capisco perché non diate la vostra disponibilità. È un torneo veramente di quelli super relax, perché si hanno 2 giorni, mi pare, per organizzarti e poterti vedere online contro il tuo avversario. Giochi una partita senza... una partita alla volta, quindi non devi dedicare, che ne so, un'intera serata a fare una partita dietro l'altra, e nell'arco di, immagino, 1 mese, 2 mesi si scoprirà chi è il vincitore di questo torneo. Quindi dai, mi raccomando, iscrivetevi, voglio assolutamente vedervi online. Vi saluto per adesso e vi do un appuntamento alla prossima puntata. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.